giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il progetto Manifattura 2030 della Regione al centro dei lavori della seconda commissione del Consiglio regionale. Ascoltati i rappresentanti dei 6 consorzi industriali. Focus specifico sulla crisi industriale che investe Trieste. Al via Udine il progetto per la realizzazione della città della sicurezza all'interno dell'ex caserma Cavarzerani. La struttura è attualmente un centro di accoglienza per stranieri. Dove saranno spostati i migranti? Nel giornale radio i progetti all'esame della prefettura. Un 47enne indagato per circonvenzione di persona incapace agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver truffato 4 vittime vulnerabili carpendo loro oltre 360.000 euro. L'indagato, non avendo risarcito le vittime, ha visto confermata la misura cautelare dalla Corte di Cassazione. In Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 12 casi gravi di influenza con complicazioni, per la maggior parte polmoniti, trattati in terapia intensiva, già più della metà rispetto alla stagione precedente. I dati recenti mostrano un aumento delle sindromi simili influenzali con un picco imminente. Gli esperti richiamano sull'importanza della vaccinazione e di diagnosi precoci. Una ricerca storica sull'esodo dall'Istria ha portato una classe della scuola media Svevo di Trieste a leggere i luoghi e le vie del quartiere con altri occhi, riscoprendo le vicende anche familiari finora sconosciute. La scolaresca sarà ricevuta al Quirinale lunedì e parteciperà alla cerimonia per il giorno del ricordo. Ancora scolaresca e questa volta a Gorizia. Siamo andati a cercare fra i giovani il senso della capitale europea della cultura che sarà ufficialmente inaugurata sabato. Nel giornale radio anche l'intervista alla artista Franco Becchiet, autore del mosaico di Piazza Transalpina. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Andrea Saule e Antonio Cagliazza. È in corso in Carnia un imponente incendio che sta interessando un'abitazione a Zenodis di Treppocarnico in via Giovanni XXIII. Sul posto distaccamenti dei vigili del fuoco di Tolmezzo e di Gemona e mezzi sono in arrivo anche da Udine unitamente a volontari da Cercivento. La priorità dei vigili del fuoco è quella di mettere in sicurezza l'edificio che è adiacente ad altri. La proprietaria della casa dove si è sviluppato il rogo è stata portata all'ospedale di Tolmezzo in codice verde. Una seconda persona è stata presa in carico da un'ambulanza a causa di una lieve intossicazione. Le tante crisi industriali triestine, quelle che riguardano U-Box, Flex e Tirso e più in generale la deindustrializzazione sempre più marcata nel territorio del capoluogo, al centro di una seduta della commissione competente del Consiglio regionale che lo ha svolto diverse audizioni. Interventi per 107 milioni e mezzo di euro, grazie ai quali verranno aperti 11 bandi a favore delle imprese. Il piano industriale per lo sviluppo del sistema manifatturiero in Friuli Venezia Giulia, presentato alla seconda commissione regionale, parte dallo stanziamento nell'ultima manovra finanziaria per favorire l'attrattività delle imprese nel territorio, la loro crescita e la presenza delle stesse sui mercati internazionali. Tra i bandi promossi, quello da 15 milioni di euro per finanziare progetti relativi alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, in uscita in primavera, e quello da 9 milioni per gli incentivi e l'insediamento nei consorzi industriali. Il bando è già stato aperto e lo rimarrà fino al 14 marzo e ancora quello finalizzato a sviluppare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti o servizi del valore di 13 milioni di euro con apertura a maggio. Una relazione corposa che i componenti della seconda commissione chiedono di esaminare con la possibilità poi di un dibattito in aula programmato per i primi giorni di marzo. Ma nel suo intervento l'assessore regionale Bini parla anche delle 3 crisi più importanti dell'area giuliana: Flex, Tirso e U-Blox. Per la prima, l'orizzonte è quello già disegnato dal fondo tedesco che acquista l'azienda dalla proprietà statunitense con gli esuberi previsti, mentre per le altre due Bini fa trasparire positività. Per la Tirso in particolare ci sarebbe l'interesse concreto di Roncadin. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il futuro dell'ex caserma Cavarzerani di Udine attualmente ospita migranti, circa 500, ma l'anno prossimo dovrebbero partire i lavori per trasferirvi la nuova sede della questura. Per gli stranieri resterà un piccolo spazio capace di accoglierne un numero inferiore. Per gli altri si pensa a trasferimenti in altri siti. Ad agosto 2023 la prefettura di Udine ipotizzava di iniziare a liberare da persone o cose la Cavarzerani ad inizio 2025, in vista dell'avvio dei lavori di trasformazione dell'ex caserma nella nuova cittadella della sicurezza con parco urbano annesso. Siamo ad inizio 2025, ma le prime vere scadenze sono slittate al 2026. Va più a rilento del previsto la fase di ricollocamento dei migranti presenti, circa 500 al momento, che procede alla spicciolata. Vengono assegnati in altre strutture, anche in altre regioni, progressivamente, quando si trova posto, senza contare che è impossibile fare previsioni sui flussi migratori. Nella nuova cittadella potrebbe essere mantenuto un più piccolo centro di accoglienza vicino alla nuova questura, l'unico edificio che sarà costruito da zero. Tutto dipenderà dalle esigenze di spazio delle amministrazioni centrali, dogane, entrate, prefetture, archivi di Stato, tribunali, che proprio in un blocco da riqualificare all'interno dell'area faranno confluire tutti i loro archivi. Quando buona parte della Cavarzerani cesserà di essere utilizzata come centro di accoglienza straordinario, ecco che potranno iniziare i lavori. Quadro economico da 60 milioni di euro. Il 2025 sarà quindi ancora un anno preparatorio. In corso la progettazione definitiva, la cantierizzazione dei lavori è prevista per il 2026. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un 47enne di origine marocchina, arrestato per circonvenzione di incapace, è stato posto agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. L'uomo che ha truffato 4 vittime vulnerabili per oltre sottraendo loro 360.000 euro. Prometteva inesistenti investimenti immobiliari in Marocco a persone anziane, psichicamente fragili. Circonvenzione d'incapace ai danni di 2 veneti di Longarone e 2 pordenonesi. A smascherare il venditore ambulante marocchino di 48 anni sono state le indagini della finanza di Belluno, che dopo un iter giudiziario arrivato fino in Cassazione ha eseguito la misura cautelare ai domiciliari nella casa dell'uomo a Ponte nelle Alpi con braccialetto elettronico. A un 64enne di Pordenone era riuscito a estorcere 100.000 euro con il miraggio di una casa sulla spiaggia di Agadir. A un 85enne di Cordenons 90.000. In tutto aveva raccolto più di 360.000 euro, denaro che aveva promesso di restituire impugnando lo scorso settembre la misura cautelare restrittiva. Il GIP del Tribunale di Pordenone aveva accolto la richiesta della difesa e sostituito i domiciliari con l'obbligo di firma. Il PM, considerato che il risarcimento alle vittime non avveniva e che c'era il rischio di reiterazione del reato, aveva fatto ricorso in appello. Tanto più che il cittadino marocchino era già stato al centro di precedenti indagini per truffe e raggiri simili in Friuli occidentale. Il riesame di Trieste aveva allora riformato l'ordinanza e disposto di nuovo i domiciliari. Lui però, con i suoi legali, aveva impugnato il provvedimento in Cassazione, che ha respinto il ricorso, confermando i domiciliari, con in più la condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle bellunesi, l'uomo riusciva a conquistare la fiducia di persone anziane e fragili che intercettava a colpo sicuro, forse grazie anche a una rete di osservatori sul territorio. Li andava a prendere a casa, li accompagnava in macchina ai bancomat e si faceva dare i soldi, come testimoniano pedinamenti e filmati degli investigatori. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Un nuovo episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso di Latisana, dove 2 individui hanno aggredito verbalmente e minacciato gli operatori sanitari. Un incidente che evidenzia la crescente crisi di sicurezza negli ospedali, già segnalata in passato. La UIL FPL ha espresso solidarietà ai professionisti coinvolti, sottolineando che situazioni di questo genere non possono essere tollerate né minimizzate. I dati mostrano un aumento delle aggressioni e il sindacato continua a lottare per garantire misure di sicurezza crescenti, come la presenza di guardie giurate. La UIL FPL sollecita la regione affinché intervenga per adottare misure di protezione degli operatori sanitari. I porti di Trieste e Monfalcone, che dal 2016 sono sotto un'unica autorità portuale, hanno visto un significativo miglioramento nell'organizzazione e un aumento del traffico di merci. Questo sviluppo ha portato anche a nuove opportunità occupazionali, grazie anche all'espansione delle aree di zona franca, all'uso dei retroporti e l'apertura di nuovi terminal. Tuttavia, evidenziano FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Mare, l'espansione delle attività ha evidenziato la carenza di ispettori portuali essenziali per garantire la sicurezza. Attualmente solo 2 ispettori sono operativi a fronte di una necessità di almeno 14. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento urgente dell'autorità di sistema per assumere nuovi ispettori, possibilmente attingendo a lavoratori già impiegati nel settore. La carenza di queste figure, denunciano, rischia di compromettere la sicurezza dei lavoratori e lo sviluppo del sistema portuale. Nei comuni di Fontanafredda e Fiume Veneto, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone hanno svolto controlli su posti di lavoro, salute e sicurezza nel settore edilizio, verificando anche il possesso della nuova patente a crediti, obbligatoria dal 1 ottobre del 2024. Sono state riscontrate violazioni, tra cui l'impiego di lavoratori irregolari e l'assenza della patente a crediti da parte di un'impresa. L'impresa non ha potuto proseguire i lavori fino alla regolarizzazione e sono state elevate sanzioni per oltre 20.000 euro. Sale in regione la curva delle sindrome simili influenzali. Nell'ultima settimana di sorveglianza virologica delle infezioni respiratorie, aumentati anche i casi gravi di polmonite. 12 casi gravi di influenza con complicazioni, la maggior parte polmoniti, trattati in terapia intensiva, segnalati in regione dall'inizio della sorveglianza virologica, numeri in linea con quelli della scorsa stagione che di casi gravi in totale ne ha registrati 22. I dati diffusi dalla Direzione Centrale Salute attestano che l'andamento delle infezioni nelle ultime 2 settimane segue di pari passo quello delle sindromi simili influenzali, ormai vicine al picco dell'incidenza, secondo gli esperti del servizio prevenzione. Un quadro confermato dal direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di Udine, Carlo Tascini, che segnala dal post-Covid un'aumentata diffusione di patogeni respiratori, anche batterici, facilitati dall'influenza e in particolare un'epidemia di infezioni da streptococco aggressivo in tutta Europa. Da alcune settimane nel suo reparto sta rilevando un aumento di casi gravi anche di polmoniti e infezioni batteriche tra pazienti sotto i 50 anni senza comorbidità, che dunque non rientrano nelle categorie fragili per le quali è prevista la vaccinazione. Complicazioni, purtroppo, come tutti gli anni, sottostimate dalla popolazione, afferma Tascini, che raccomanda non soltanto la profilassi, ma anche una diagnosi e una terapia precoci per prevenirle. Sul fronte della curva in salita delle sindromi simili influenzali, al momento sono stati riscontrati in particolare virus influenzali, coronavirus, virus respiratorio sincitiale e rinovirus. I primi dati dell'Istituto Superiore di Sanità relativi alla 5ª settimana di sorveglianza virologica sul territorio, che devono ancora essere consolidati, mostrano una situazione stabile per quanto riguarda l'incidenza, attestata a livello medio ma in crescita. Le fasce più colpite, bambini e adolescenti, l'incidenza più alta nell'ex provincia di Trieste. Dal servizio prevenzione, a fronte dell'aumento di casi anche gravi, un richiamo ulteriore alla vaccinazione, che ancora è sempre possibile, e alle consuete regole igieniche che contribuiscono a prevenire l'influenza. Servizio era di Lara Boccalon e noi cambiamo argomento, passiamo alla situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione, ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 9,5 gradi, vento da est nord-est, quindi bora, a una velocità media di 34 km orari. Udine 10 gradi, Gorizia 9,5 gradi, Pordenone 9 gradi, Forni di Sopra 6,5 gradi, Tolmezzo 6, Piancavallo 4, Sappada 3, Tarvisio 2,5 gradi, sul Monte Zoncolan 1 grado, sul Lussari meno 1,5 gradi, a Grado 10,5 e a Lignano 9. Queste invece le previsioni dell'ARPA. Oggi pomeriggio cielo in genere sereno, verso sera possibile qualche velatura sulla regione e nubi basse nel Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, zero termico in calo da 2400 a 1100 metri. La storia dell'esodo giuliano-dalmata scoperta, studiata e raccontata dai ragazzi della terza F della scuola media Svevo di Trieste. Ne è venuto fuori un racconto che approderà al Quirinale lunedì 10, il giorno del ricordo. Le case del villaggio istriano del quartiere di Chiarbola, con le vie dai nomi come Orsera e Lussin Piccolo, che ai giovanissimi ricordano l'estate al mare, la chiesa dedicata a San Gerolamo Confessore. Parte da questi luoghi il ricordo della tragedia dell'esodo giuliano-dalmata nel progetto della classe terza F della scuola primaria di primo grado Italo Svevo di Trieste. Dalla fantasia dei ragazzi è nata la storia di Carlo, la professoressa Silvia Buttò. Abbiamo immaginato un ragazzino che frequenta la scuola Italo Svevo, che viene accompagnato ogni giorno dalla nonna nonna a scuola, e durante queste passeggiate piano piano la nonna comincia a raccontare al nipote la storia del quartiere in cui vivono, attingendo proprio dalle testimonianze che noi abbiamo raccolto e da quelle d'archivio. Un viaggio nei drammatici eventi del dopoguerra, ricostruiti attraverso i documenti dell'Archivio di Stato e quelli dei Musei Civici di Trieste e del quotidiano Il Piccolo, arricchiti dalle testimonianze ancora vive delle persone che hanno condiviso la storia della loro famiglia. Parlavo con mia mamma e mio padre e parlavamo anche con la signora di sotto, appunto, che è un esule, e quindi conoscevo già la storia in parte. Mio nonno, da parte di mio padre, è proprio un esule, perché lui è proprio nato lì in Istria, e invece mia nonna ha la parte della sua mamma istriana, ed è proprio stata, ha proprio vissuto in questi campi, cioè in questi campi profughi dove appunto sono stati mandati gli esuli. Infatti da lei sono riuscita a prendere la testimonianza di com'era vivere dentro questi posti. Il progetto sarà premiato nell'ambito del concorso 10 febbraio nel marmo e nel bronzo dedicato agli itinerari storici e luoghi della memoria nelle terre della frontiera adriatica. I ragazzi nel giorno del ricordo saranno accolti al Quirinale dal presidente Mattarella. Sono molto emozionato e mi aspetto comunque di fare una bella figura presentando il progetto a cui abbiamo lavorato tutti insieme. Trieste, Elisa Marioni, TGR Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Gorizia ora e facciamo un viaggio nelle scuole della città tra i giovani alla scoperta del senso della capitale europea della cultura. Sventolano al sole le bandiere d'Italia, Slovenia ed Europa. All'istituto Trubar Gregorčič di Gorizia, il primo liceo classico sloveno è nato qui nel 1913. Chiuso durante il fascismo, riaperto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oggi ospita 188 ragazzi. Ci sono sloveni della minoranza, ma anche sloveni della vicina Repubblica che scelgono di varcare il confine ogni giorno per imparare l'italiano. E poi ci sono gli italiani con nonni sloveni. È per noi motivo di grande orgoglio, dice Barbara Zlobec, docente di sloveno, latino e greco, che ci siano ragazzi che prima parlavano solo italiano e poi scopriamo avere nonni sloveni e che erano stati costretti all'epoca a dimenticare la propria lingua madre. Ecco, ora i loro nipoti, dice la professoressa, diventano bilingue e questa è una conquista per tutti. Mi sento cittadina europea, racconta Nastia Tomsic, 18enne, studentessa del classico. È figlia di genitori della minoranza slovena. Esistono ancora delle barriere tra i confini, le chiediamo, e lei risponde sicura, assolutamente sì. E tocca il tema attualissimo dei controlli dell'esercito ai confini, controlli ripristinati un anno e mezzo fa per controllare l'immigrazione clandestina. Se non ci fossero questi controlli, racconta la ragazza, il nostro viaggiare sarebbe molto più fluido, perché per noi questo è già un unico territorio. Per la prima volta, proprio nell'anno della capitale europea della cultura, questo liceo e il liceo classico di lingua italiana Dante Alighieri di Gorizia celebreranno assieme la notte europea dei classici il 4 aprile. Visitiamo anche questo istituto che conta 130 ragazzi, stanno preparando uno spettacolo che andrà in scena proprio sabato nella giornata inaugurale, sarà in italiano, inglese e sloveno. Sono felice di sentir parlare sloveno, racconta una ragazza, Francesca Cavallero, non parlo questa lingua ma la sento comunque familiare abitando qui. Ad un altro giovane, Pietro Mosetti, chiediamo se sarebbe giusto introdurre un po' di sloveno nella scuola italiana e lui dice: io parlo già lo sloveno e penso che sì, sarebbe giusto conoscere lo sloveno, perché appena varchiamo il confine tutti conoscono l'italiano, ecco, sarebbe giusto fare viceversa. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Fra ciò che resterà di Go 2025, il mosaico realizzato dall'artista Franco Vecchiette sulla piazza transalpina, lì dove c'è il cippo confinario e dove un tempo correva una rete che separava due città e due mondi, ha realizzato un'opera d'arte che evoca fratellanza e condivisione. Il 12 febbraio del 2004 la rete che divideva Gorizia e Nova Gorizia in piazza Transalpina è stata tolta dai due sindaci dell'epoca, Brancati e Brulza. In pochi mesi il cippo confinario, che non si può eliminare in quanto segna il confine tra due stati, con il numero 5715, è stato trasformato nel mosaico d'Europa, firma di Franco Vecchiette. Questa rete era già un elemento dove i giovani da una parte giocavano a pallavolo con quelli dell'altra. Dunque era già un primo passo verso un parlarsi assieme, no? E allora sono stato molto contento e molto lusingato anche, perché si sono presentati artisti da tutte le parti di Europa e c'era anche un americano. Un mosaico realizzato dai maestri della scuola di Spilimbergo con i cubetti di quarzo che riprendono lo zebrato delle strisce pedonali come metafora dell'attraversamento, nel quale sono immersi frammenti di acciaio del numero confinario che Vecchiet ha fatto esplodere simbolicamente. Io sono sloveno, sì, però sloveno che sono nato sulla linea del confine, no? Perché mio padre ha vissuto tutta la vita sul confine, mia madre anche, dunque noi siamo vittime ma anche protagonisti di queste cose. Dunque è naturale che io mi pongo questi problemi, no? Se uno adesso, un turista, viene qua e guarda questo, allora riesce a capire come mai queste cose succedono e come mai queste cose sono così importanti per noi. Due città di confine, unite nel nome della bellezza e della conoscenza. Gorizia, Italia e Nova Gorica, Slovenia, insieme capitale europea della cultura 2025. Il racconto della TGR, dal piazzale un tempo separato dalla cortina di ferro, una storia di divisione che diventa esempio di convivenza e di collaborazione. Un territorio che cambia, sotto il segno dell'innovazione dell'Europa. Rai 3, sabato 8 febbraio, ore 23:55. Storia di un confine. Uno speciale della testata giornalistica regionale. Secondo l'Istat, i laureati nelle aree tecnico-scientifiche sono un quarto del totale e tra questi le donne sono ancora una minoranza. Per promuovere tra i giovani la conoscenza delle materie tecnico-scientifiche, da 2 anni è stata istituita la Settimana Nazionale delle Discipline STEM, pensata anche per colmare il divario di genere in questi settori. Ne abbiamo parlato stamattina nella nostra trasmissione. Buongiorno Regione. Poche lauree e soprattutto poche donne. Nel mondo delle discipline STEM, quelle legate alla scienza e alla tecnologia, la presenza maschile è ancora prevalente. In un paese dove solo il 30% dei giovani tra i 24 e i 35 anni sono laureati, solo un quarto si laurea in materie scientifiche e di questi solo il 40%, meno della metà, sono ragazze. Nonostante la passione per le materie, spesso per loro questa differenza numerica può tradursi in un senso di inadeguatezza. Chiara Pradale, studentessa di ingegneria meccanica all'Università di Trieste. A lungo termine quello che io percepisco ancora oggi e che percepiscono anche altre mie colleghe che non fanno per forza ingegneria ma sono sempre nella facoltà STEM è proprio un bisogno di dimostrare qualcosa di più, no? Di meritarsi il posto in ingegneria piuttosto che in matematica o nelle altre facoltà, come se l'essere donna fosse in realtà un difetto e bisogna, diciamo, mantenere un certo standard. Quindi i voti mediocri, i voti nella media non vanno bene, bisogna sempre superare l'eccellenza. Chiara Pradal fa parte anche della squadra di studenti che segue la progettazione e la costruzione di auto da corsa elettriche dell'Ateneo Giuliano, un ambito ancora molto maschile, ed è a capo di un reparto specifico. Essere l'unica donna, ma essere a capo di un reparto così di nicchia sicuramente è qualcosa di, secondo me, un obiettivo raggiunto, diciamo, piccolino, che non deve limitare ma portare avanti. Piccoli segnali che, nonostante i numeri, qualcosa si muove e i cambiamenti partono dalla scuola e soprattutto dalla famiglia. La professoressa Susanna Zaccarini, docente di statistica sociale all'Università di Trieste. La situazione sta cambiando e la cosa interessante è che se nella famiglia almeno uno dei genitori ha già seguito un percorso STEM, questa consuetudine, chiamiamola così, viene trasferita soprattutto alle figlie più che ai figli. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Primo appuntamento di Cinema Zero con i documentari di Aspettando Pordenone Doc Fest alle 20:45, dove verrà presentato al pubblico il manifesto per una comunicazione responsabile e inclusiva dopo la visione di Black Book Diaries, candidato all'Oscar, che affronta i temi della violenza sulle donne e del cyberbullismo. Abbiamo chiesto al presidente di Cinema Zero, Marco Fortunato, il perché della scelta della pellicola e come si articola l'iniziativa. Ci è sembrato il documentario perfetto per lanciare anche un progetto che si lega fortemente al Pordenone Docs Fest e a Cinema Zero, cioè il manifesto ampio della comunicazione responsabile ed inclusiva, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Quello del contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione è appunto l'oggetto di Black Box Diaries, che è una storia veramente terribile, difficile trovare un altro termine per definirla, in cui la regista è anche la vittima di questa violenza che lei stessa appunto come vittima e come reporter denuncerà. E ci è sembrata, come dicevo, l'occasione perfetta per lanciare il nostro manifesto per la comunicazione responsabile ed inclusiva. Siamo la prima realtà cinematografica a farlo e questo rappresenta per noi un'occasione poi per tradurre in atti concreti questo impegno. Quindi abbiamo effettivamente redatto un manifesto che si articola in una molteplicità di azioni, un manifesto che si divide in quattro aree: la comunicazione, gli spazi, le relazioni e i percorsi antiviolenza, nella consapevolezza che le parole sono importanti e possono significare molto per la comunità e per il territorio. Credete che questi valori possano essere a rischio con la nuova presidenza americana e quello che sta passando in genere da parte di una certa parte politica anche in Europa? Questi valori vadano difesi sempre e comunque, che siano stati delle importantissime conquiste e che come tali potenzialmente possano essere sempre a rischio, soprattutto se questi valori rimangono esclusivamente delle dichiarazioni di principio e non si traducono invece in gesti concreti quotidiani. Sono le 12:55 minuti e 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Roberto Cavallari e da Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della nostra redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione. Da Andrea Saule e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.